Uscito sul ballatoio del sesto piano, mi ritrovo faccia a faccia con un incrocio tra Anna Magnani e Moira Orfei. Mi guarda con un tono di rimprovero e mi dice: ma cosa mi combini? Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:06 minuti, questa è Radio 24. Buongiorno a tutti. Sono Matteo Caccia e sono qui. Ma in fondo, chi sono veramente le persone che vivono nelle case vicino alle nostre? Per anni il mio vicino di casa è stato un ristoratore milanista. Era il proprietario di un raffinato ristorante di Porta Genova. Solo che era molto tifoso. E quando il Milan giocava, la sera, lui registrava la partita e se la riguardava alle 2 del mattino, senza sapere il risultato, e come se la partita fosse lì, in diretta, in quel momento, urlando e imprecando manco fosse a bordo campo. Ho avuto vicini simpatici e altri meno, come tutti, vicini rumorosi e altri che sembravano non essere mai in casa. Alcuni vicini li ho frequentati e ci sono diventato amico. Altri invece, se ci passassi vicino per strada, non lo riconoscerei. Ho avuto vicini che facevano i vicini e altri che facevano finta di niente. Però il mio vicino preferito è sempre stato quello che viveva al terzo piano dello stabile di Via Tabacchi, la casa dove ho vissuto insieme al mio amico Mauro per un paio d'anni. Lui non l'abbiamo mai visto in faccia, o almeno non dal vivo. Era spesso via per lavoro, ma per qualche strana ragione, dovuta probabilmente al fatto che il palazzo era piuttosto vecchio e non particolarmente curato, i cavi dell'antenna del suo televisore facevano contatto con i cavi dell'antenna del nostro televisore. E quindi noi potevamo vedere dalla nostra TV quello che lui vedeva sulla sua. La cosa potrebbe non sembrare particolarmente interessante, se non fosse stato per due motivi. Il primo era che lui aveva la Pay TV, e quindi se lui la stava guardando, potevamo guardarci anche noi una partita del sabato o della domenica sera. Il secondo invece era che, mettendo su audio video della nostra TV, se lui inseriva un DVD, o meglio una videocassetta nel suo videoregistratore, noi potevamo sederci sul divano e goderci lo spettacolo. In particolar modo se le videocassette che si guardava erano fatte in casa in maniera, diciamo così, amatoriale. Ecco perché mi piacciono le storie dei vicini di casa. Perché sono appuntate, perché conosci i protagonisti in carne ed ossa e perché non hai bisogno di aprire un libro o uscire e andare al cinema. Ti basta vivere la tua vita dentro casa per avere storie nuove e gratis ogni giorno. Se state seguendo una storia di qualche vostro vicino di casa e volete raccontarla come sto facendo io, 80024 0024. Quello è il telefono ovviamente per chiamare a viva voce, altrimenti 349 238 6666 per mandare un SMS. Effettivamente è così, se si vive in una casa monofamiliare no, perché i vicini stanno troppo al di là per poter riconoscere personalmente e seguire la vita, ma se si abita in un palazzo è un po' come stare in un grande zoo umano, no? Dove tu stai in casa tua, però senti tutto, senti le persone che entrano, che escono, senti le persone che litigano e di fatto tu partecipi di quelle storie. O magari non ci partecipi, però non ne fai parte, insomma. Però le stai a guardare, le stai ad ascoltare. E alcune sono effettivamente molto interessanti. 80024 0024, 349 238 6666. Sul profilo Facebook Aurora mi scrive: la mia camera confinava con un appartamento affittato a lavoratori studenti. Una delle storie più divertenti dei miei molteplici vicini è stata quella del vicino omosessuale che spendeva il suo patrimonio in discoteca. Lui si era trovato in casa, come coinquilino, un ex eroinomane Galeotto. Il suddetto l'ex eroinomane Galeotto, più di una volta si addormentava nudo nella poltrona dell'ingresso del palazzo. Poco dopo sparì e finì di nuovo in prigione. Dopo qualche giorno però degli uomini entrarono in casa e portarono via tutto. In seguito arrivarono i parenti del Galeotto e fecero un gran casino con tutto il palazzo perché era stato portato via tutta la sua roba. Direi due mesi veramente interessanti. Silvia invece, che vive, mi pare di capire, a Parigi, in un grattacielo di 14 piani, in un comprensorio che raccoglie altri 5 palazzi più o meno dello stesso tipo, c'è un viavai continuo, il portiere al centro di questo piccolo mondo raccoglie richieste e lamentele. Nessuno conosce nessuno. Saluti Freddy in ascensore. Noi siamo Les Italiens, ovviamente, e ci ascoltano con curiosità per la nostra lingua. Sorrisi di cortesia, se c'è mia figlia però socializza con tutti e a volte scopriamo le storie dei nostri vicini. 80024 0024, 349 238 6666. Io avevo una volta un vicino che faceva il il musicista suonava, come si chiama, il saxofono, suonava il saxofono e provava, amava provare in casa e lo faceva giorno e notte. Non ho mai avuto però il coraggio di picchiargli con la scopa, mi sembrava che dovesse fare il suo lavoro e quindi mi sembrava brutto dargli fastidio. Oppure avete avuto, che so io, la signora, è capitato, se si è vissuto in una grande città magari, di avere una signora che faceva quel mestiere lì e riceveva i clienti in casa. 800240024, oppure se avete avuto, che so, una famiglia stile anni 50 di fianco con 3-4 figli tutti nello stesso appartamento, magari in un bilocale, che vivevano tutti ammassati, di quelli che devi spostare i letti della figlia quando ti svegli la mattina, oppure devi andare a dormire, devi spostare il letto del figlio. Ecco le storie dei vostri vicini di casa. 800240024, 349 238 6666. Io sto cambiando casa, sto imparando a conoscere le storie dei miei vicini di casa e in questi giorni più o meno va così. Stare qui a guardare dalla finestra per passare il tempo è un conto, ma va a farlo come lo fai tu, con il binocolo, formulando delle opinioni assurde su tutto quello che vedi, addirittura morboso. Casa nuova significa nuove abitudini, nuovi odori, nuova musica, nuovi orizzonti, tutto nuovo. Bisogna studiare e capire dove si è finiti, perché un conto è vedere una casa e un altro è viverci. Io poi sono curioso di natura, quindi sono 3 giorni che sto alla finestra e guardo. Cerco di conoscere. Sì, si potrebbe dire che spio. Insomma, senza avere il gesto come James Stewart, sto fermo e fisso il cortile. Lo faccio di nascosto dalla mia Grace Kelly, perché lo so che è una cosa un po' strana. E la nostra storia è già abbastanza bizzarra così, quindi meglio non metterci anche l'ingrediente del matto caccia guardone, almeno per ora, insomma. Durante il trasloco, tuttavia, non sei tu che studi gli altri. Sono gli altri che studiano te. Sei al fronte, sul portone, sulle scale, in ascensore, sul ballatoio. Non puoi startene in trincea dietro la finestra. E ammetto che questo mi ha messo un po' in difficoltà. Noi non abbiamo fatto una cosa complicata e grandiosa, niente trasloco tipo famiglia intera che si sposta. La nostra è stata solo una continua serie di piccoli trasporti di oggetti. Tante minuscole macchinate di roba. Lo stile è rimasto un po' quello dei ragazzi che si spostano e si sposteranno presto. Insomma, niente radici da trapiantare, via. Solo che quel movimento lì è bastato per incrociare le persone che girano per le scale nei differenti orari della giornata. Per conoscere la portinaia, ad esempio, e i vicini di casa. Per capire che gente avrebbe bussato alla porta per chiedermi il sale, a chi avrei dato disturbo con la musica alta, chi mi avrebbe chiesto come mai non vado in ufficio la mattina alle 8, ad esempio. Insomma, quale umanità avrei avuto intorno nei prossimi tempi. E devo dire che è stato uno shock. Dunque, noi stiamo al primo piano di una casa di 3. E ogni tanto l'ascensore è occupato e non mi andava di farmi riconoscere subito per quello ingombrante. Così ho deciso di farmi un po' di rampe a piedi. Dopo aver scaricato la macchina nell'ingresso e chiuso il portone, ho preso ogni singolo scatolone e mi sono fatto i 57 gradini in su e i 57 gradini in giù, contandoli uno per uno per passare il tempo. Sono stato anche attento a non mettere le cuffiette per evitare l'effetto calciatore, quello insomma antipatico e asociale. Insomma, voglio dire, ci ho pensato a come sarei apparso agli inquilini che vivevano in questa casa prima di me. Ero pieno di sorrisi, buongiorno, buonasera, ma non è che abbia incontrato tante persone, anche perché le scale alla fine non piacciono a nessuno. Insomma, nessun problema. Finché non mi sono accorto che mancava qualcosa. Mancavano le mie audiocassette e soprattutto mancavano le mie videocassette. Sì, perché io sono uno che il passaggio dall'era analogica a quella digitale ha fatto un po' fatica a mandarlo giù, per cui possiedo ancora un videoregistratore e un mangianastri. Ma è snobismo, è solo che sono lento. E poi ci sono delle cose che ho registrato da piccolo e che non saprei come ritrovare oggi, e quindi me le porto dietro, un po' come una coperta di Linus. Roba che non potrei rintracciare se non spulciando, boh, negli archivi RAI forse. Robe tipo il concerto di Sting a Umbria Jazz. E io le cassette le tengo in un apposito contenitore di legno molto ordinato, preciso, che attacco al muro. Era tra le scatole dell'ingresso ed era sparito. Era il mio benvenuto nella casa nuova, insomma. Matteo, non girare mai le spalle. Ti fregheranno ciò che hai di più caro. Society, and many candles brighter than the sun. Mi scusi, non è che per caso ha visto una specie di scatola che era qui un secondo fa e che ora non trovo più? Con tanta speranza nel prossimo, ho fatto questa domanda alla portinaia, alla signora Ludovica. Lei mi ha guardato col compatimento che si dedica al figlio piccolo, che non si accorge che il fratello più grande gli ha mangiato la merendina e ha preso in mano il suo citofono interno. Costanza, per caso hai preso per sbaglio una scatola che sembrava da buttare via qui sotto? A me, a dire la verità, non sembrava roba da buttare via, anche perché c'erano dentro le mie cose più preziose. Tutte sistemate per benino, in ordine e con tanto di etichetta colorata e scritta col pennarello. Però dovevo imparare le usanze della mia nuova casa, per cui me ne sono rimasto in silenzio. La portinaia ha proseguito al citofono e poi mi ha indicato l'ascensore e mi ha detto terzo piano. L'ho ringraziata e ho capito che avrei dovuto andare a recuperare l'area furtiva direttamente dalla ladra e chissà, forse avrei dovuto anche ringraziarla. Quindi esco sul ballatoio del terzo piano, mi trovo faccia a faccia con un incrocio tra Anna Magnani e Moira Orfei, che mi guarda con tono di rimprovero e mi dice: ma che cosa mi combini? Io ho l'accortezza di stare zitto, ancora una volta, e mi avvio verso la tenda color argento che copre il suo ingresso e dove la signora è entrata, per non prendere freddo. Dopo avermi detto che le mie cose erano lì dentro e dovevo stare più attento a lasciare la roba in giro, soprattutto se sembrava spazzatura, mi dà un bacio sulla guancia. Dopo aver sottolineato la fatica, oltretutto, che aveva fatto per portarsi sulle cassette, mi fa capire che avrebbe gradito una copia di Grease. Quindi mi congeda dicendomi che se vuole mi legge anche le carte, mi fa un prezzo di favore. E se ho intenzione di fare abbonamenti a riviste, lei le può ritirare per me, tanto lavora a casa e così gli dà un'occhiata prima. Io la ringrazio e scendo nel mio appartamento, cercando di capire se sono più dispiaciuto dell'essere stato accolto con un furto oppure sollevato dall'aver proceduto a un ritrovamento. È la vecchia storia, quella del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Sto riflettendo se raccontare o meno questa storia nata lì, quando mi suona la porta. È Salvatore, il pizzaiolo napoletano di cui avevo già sentito parlare. Vive con il fratello e il cugino. Io apro contento, so che tra noi ci sarà un bel rapporto di vicinato. È bianco come un cencio. Senza manco salutare mi dice che per sbaglio in pizzeria ha bevuto del brillantante invece che dell'acqua. Ha vomitato fino adesso. Non sa se è il caso di andare al pronto soccorso, intanto ha preso del Gavis con sciroppo. Io capisco che non sarà una vita noiosa quella che mi aspetta qui nella nuova casa. Prendo il telefono, faccio il 118 e intanto lo metto a sedere nell'ingresso e mentre aspetto che rispondano gli chiedo come ha fatto a bere il brillantante. E lui mi dice che era una bottiglia d'acqua ed è trasparente come l'acqua, quindi è facile confonderlo. Mi ha detto che ce l'aveva messo lui, ma se l'era scordato. Molto bene. Costanza e Salvatore ora un po' li conosco. E poi ci sono tutti gli altri. A me mi sa che Hitchcock mi fa un baffo. Radio 24 800 24 00 24, sono le 16:22 in diretta da Milano. Da oggi mi scrivono, controllerò i nomi dei campanelli nei posti in cui andrò a vivere. Se un giorno appare Matteo Caccia me ne vado. Ho abitato in un appartamento a Genova dove al piano sopra il mio c'era una signora con tanto di figli piccini che riceveva distinti signori. Così di tanto in tanto si sentiva il cigolio ripetitivo della rete insieme con dei colpi sordi. Cosa sono i colpi sordi? Posso immaginare il cigolio della rete, ma i colpi sordi. Devo dire però che la cosa non mi dava fastidio, in quanto ciò accadeva sempre dalle 10:30 alle 13. Poi, rigoroso silenzio. Ciao Matteo, ieri sera a Milano, zona via Padova, super party dei nuovi vicini, tutti trans, non ho resistito a sbirciare dalla finestra. Ciao, credevo non avesse resistito a fare un salto alla festa, sarebbe stato magari più interessante. 800 24 00 24, oggi per essere dei vostri vicini. Ci sono un sacco di film che parlano di storie, di varie storie, oltre che di romanzi ovviamente, di varie storie di persone che vivono in casa in appartamenti diversi. Ce n'è uno in particolare, è un film che purtroppo non è uscito in Italia, è un film del 2008 che non racconta esattamente di storie di persone che vivono vicine, ma di un folle regista teatrale che ricrea una città all'interno di un grande capannone dove vivono persone, ciascuno con la propria storia, ciascuno in un grande in un appartamento di un grande palazzo, ricostruendo di fatto New York. Il film si chiama Sineddoche New York, ripeto, non andate a cercarlo perché non è uscito in Italia, potete guardarvelo in streaming, scaricarlo o comprarvi il DVD su Amazon. Il protagonista è quel grande attore che è Philip Seymour Hoffman, e ci sono altri attori che, insomma, che riconoscete quando li vedete. L'autore è Charlie Kaufman, che è fondamentalmente uno sceneggiatore. Ha scritto alcuni tra i film più divertenti degli ultimi anni, tipo Essere John Malkovich, oppure Se mi lasci ti cancello, che ha quell'orribile titolo italiano. Insomma, ha scritto diversi film che poi hanno diretto Michel Gondry e Spike Jonze. Questo film ha di particolare che appunto questo regista ricostruisce per intero una coppia della vita, con tutte le persone che ci vivono dentro, rubando le storie delle persone che vivono nella vita vicino a lui, tra cui anche i suoi vicini di casa, e rimettendole in scena lì, in quella specie di enorme teatro viaggiante. I'm just a little person, one person in a sea of many. I'm not a homosexual. Gesagt, du wurdest erst abstract. Somewhere, maybe someday. I don't know why I make it so complicated. That's what you do. Far away. I help you through any way I can. Somewhere, maybe someday. There are millions of people in the world. Maybe somewhere far. And none of those people is an extra. E questa è la cosa più interessante che dice nel film, chiaramente tutto in inglese perché non c'è una versione italiana, ed è la parte finale di questo piccolo frammento del film che abbiamo preso. A dirlo è proprio Philip Seymour Hoffman, che dice: ci sono milioni di persone nel mondo e nessuno di loro è una comparsa, tutti vivono la loro storia, piccola o grande storia personale. Il film si chiama Sineddoche New York, è un film colossale, difficile, ma è un bel film. Nel finale avrei voluto provare a mandarvi un frammento di questo film, che è un monologo che dice un prete ad un funerale, tutto ricostruito, tutto finto ovviamente, tutto all'interno di questo teatro che questo regista folle ricostruisce. Non c'è una versione italiana e quindi alla fine del programma ho semplicemente fatto una veloce traduzione e ve la proverò a leggere io. Vi ripeto, il film si chiama Sineddoche New York, se vi capita di incapparci, o meglio, se avete voglia di cercarlo. E a proposito appunto di grandi film e grande letteratura, c'è un romanzo che è la quintessenza delle storie all'interno di un palazzo. È un romanzo del 1978 scritto da Georges Perec e si chiama La vita, istruzioni per l'uso. È proprio il racconto di come ogni storia di ogni appartamento sia di fatto una storia da raccontare. Il romanzo è molto bello ed è anche molto lungo, e però vorrei leggervi giusto l'inizio. Capitolo primo. Per le scale. Sì, tutto potrebbe iniziare così, qui, in questo modo. Una maniera un po' pesante, un po' lenta, nel luogo neutro che appartiene a tutti e a nessuno, dove la gente si incontra quasi senza vedersi, in cui la vita dell'edificio si ripercuote, lontana e regolare. Di quello che succede dietro le pesanti porte degli appartamenti, spesso, se non sempre, si avvertono solo quegli echi esplosi, quegli incidenti o accidenti che si svolgono in quelle che si chiamano le parti comuni. Gli abitanti di uno stesso edificio vivono a pochi centimetri di distanza, separati da un semplice tramezzo, e condividono gli stessi spazi ripetuti, di piano in piano. Fanno gli stessi gesti nello stesso tempo: aprire il rubinetto, tirare la catena dello sciacquone, accendere la luce, preparare la tavola. Qualche decina di esistenze simultanee che si ripetono da un piano all'altro, da un edificio all'altro, da una via all'altra. Si barricano nei loro millesimi e vorrebbero tanto che non uscisse niente, ma per quanto poco ne lasciano uscire, il cane al guinzaglio, il bambino che va a prendere il pane, è sempre dalle scale che esce tutto. questo edificio, dove c'è un vecchio ascensore quasi perennemente guasto, le scale sono un luogo vetusto, di dubbia pulizia, che si degrada di piano in piano, secondo le convenzioni della rispettabilità borghese. Passatoia due volte spessa fino al terzo, spessore unico dal terzo in poi, per finire in niente, negli ultimi due, sotto i tetti. Ecco, si inizierà da qui, fra il terzo e il quarto piano di Rue Simon Corbusier, al numero 11. Io sono qui. Nella foto di oggi, come capita spesso ultimamente, potremmo essere ovunque. Potremmo essere nella savana, potremmo essere in qualche giungla tropicale, o potremmo essere in Italia, in qualche parte della campagna dove c'è tanta acqua, però. Non sono delle risaie, perché c'è della natura abbastanza prorompente e non organizzata come accade con le risaie, però c'è acqua, acqua dappertutto. In fondo si vede una striscia che potrebbe essere un lago, forse, o forse il mare. E poi piante, credo piante però non coltivate, anche se hanno un'area un po' familiare queste piante, ma non so cosa potrebbero essere. E quindi forse questa potrebbe essere la foce di un fiume. Iezzi Massimo, 49 anni. Estate 2010, sono sul delta del Po con la mia fedele Vespa. Terra e mare sono in continua evoluzione. È quasi sera, la brezza è divina e dal pontile osservo piccole onde. Mare e fiume si incontrano magicamente. Casa mia è a 350 chilometri. Io sono qui. L'avevo beccata, era la foce di un fiume, quindi c'era acqua dolce e acqua salata. Ringrazio Massimo, continuate a mandare le vostre foto. Io sono qui, @radio24.it, ma anche il profilo Facebook Matteo Caccia, io sono qui, oppure 349-238-6666 per gli sms, 800-24-0024 per chiamare in diretta. 800240024 349-238-6666 a Radio 24, sono le 16.35 e mi scrive Giovanna, è l'ultimo nome ma non è il suo nome, non si firma. Mi sono appena trasferita da un appartamento con vicino un DJ. Sul portone della nuova casa, pochi giorni fa, incrocio una signora, mi sorride, mi dice che è la mia vicina del piano sotto, ma io vivo al piano terra. Le chiedo se abita in cantina, lei mi dice che no, è al piano sopra, ma non l'appartamento sopra il mio, lì vive Giovanna e devo stare bene attenta a non confonderla con lei. Ecco, ora temo solo l'incontro con Giovanna. Ho riso un sacco per il brillantante. Guarda, Salvatore rideva un po' di meno. La mia ex vicina di casa alle 6 del mattino fingeva di pulire i vetri per vedere chi andava e veniva. Ciao a te. Andiamo però direttamente da Adam a Modena. Pronto Adam? Non ce l'abbiamo Adam, aspetta, andiamo con un'altra telefonata, allora lo prendiamo dopo. Andiamo da Fabio da Milano, ce l'abbiamo Fabio da Milano. Eccolo qua, ciao Fabio. Ciao Matteo. Come stai? Abbastanza bene. Dove sei? Sono in giro, sono in macchina, sono in giro per lavoro. Senti, raccontami la storia del tuo vicino o vicina che fosse. Vicino, è un episodio di parecchi anni fa, io ero ragazzino, all'epoca avevo 10-11 anni, sì. E l'appartamento a fianco ai miei è sempre stato un appartamento in affitto, per cui sono passati tantissimi personaggi, sì. Molto particolari. Uno di questi, appunto, c'era una famiglia dove avevano la loro figlia, che era un po' più grande di me, e adesso non mi ricordo bene, aveva qualche problema a livello mentale, insomma, sì. Niente di che, però insomma... Come non è successo che più di una volta questa ragazza si è chiusa in casa e con la chiave evidentemente nella toppa, e il padre rientrando non riusciva a rientrare, lei non so bene perché non apriva o non riusciva ad aprire. Quindi siccome i nostri due appartamenti erano adiacenti e confinanti e i due balconi vicini, questo signore più di una volta, perché è successo più di una volta, veniva a bussare da noi chiedendo se poteva passare dal nostro balcone e andare sul suo balcone. Sai che fine hanno fatto questi vicini? Ma non lo so, sono stati lì un paio di anni e poi se ne sono andati, ecco. Ma... Tu vivi ancora lì, Fabio, o no? No, i miei vivono ancora lì. I tuoi vivono ancora lì. Fabio, ti ringrazio molto. Okay. Ciao, buona giornata. Era il quinto piano, per cui era un po' alto. Ah, beh, immagino. Questo era un dettaglio non trascurabile, effettivamente, quinto piano. Grazie, buona giornata. Prego, ciao. Ciao, grazie. Lo studio del dottor Dintville. un lettino per le visite, una scrivania metallica quasi nuda con un telefono, una lampada sondabile, un ricettario, una stilografica d'acciaio opaco nella scanalatura di un calamaio di marmo e basta. Un piccolo divano coperto di cuoio giallo, due piante grasse a destra e a sinistra la finestra. Il dottor Dintville è seduto al tavolo e scrive una ricetta con l'aria più indifferente del mondo. È un uomo sui 40 anni, quasi calvo, dal cranio ovoidale. Anche questo è un pezzo tratto da La vita e istruzioni per l'uso. Sono i capitoli sono veramente delle piccole storie a sé, al punto che mi pare che nella traduzione francese non fosse romanzo, ma La vita e istruzioni per l'uso, romanzi. 800240024, andiamo a Siena da Emilio, da Emiliano. Pronto Emiliano? Pronto, ciao Matteo. Ciao Emiliano, guarda, io volevo che tu mi raccontassi la tua storia, perché mi è arrivato un SMS che diceva, aspetta che lo ritrovo, quella del contatto con l'antenna non me la bevo, a meno che tu non te la faccia certificare in diretta da un tecnico della radio, Roberto da Roma. Ora Emiliano, basta, diciamo, se sono due le storie simili, sono già non ci potevo credere un'indicazione. Quando l'ho sentita raccontata da te, perché a me mi è capitata uguale. Cioè, senti, tu accendevi la televisione? Allora, premessa, io studente fuori sede, non dirò la città. Sì. Perché la persona di cui sto per parlare ascolta Radio 24. Ok. E non ti riconosce Emiliano. Sono studente fuori sede, di vicini non sa nulla. Io ho cambiato 6 case in 8 anni. Sì. Ho visto di tutto. Allora, questa persona qua abitava al piano di sopra e affittava la casa della madre al piano di sotto. Allora, chi ha Sky sa che se il sistema d'antenna è lo stesso, al piano di sotto, su AV, si vede quello che la persona sta guardando al piano di sopra. Ma questo in assoluto, Emiliano? Se sempre? Se il sistema d'antenna è lo stesso, se la tua antenna è una derivazione dell'antenna, un accrocchio, come si suol dire, sì. L'antenna superiore, tu su AV vedi quello che, perché AV è il canale suo dove lui ha Sky. Ok, non entriamo nel merito, altrimenti non usciamo più, però questa roba può succedere. Tu cosa vedevi, Emiliano? Allora, io vedevo le partite, perché lui era molto gentile, mi metteva le partite. Sì. Questa persona era un archetipo, fantastico, palestratissimo, c'aveva la palestra nel seminterrato. Sì, ok. Lucido come un coso con l'Audi, la DMV in garage. Va bene, e dimmi che oltre alle partite vedevi quello che vedevo anch'io. Assolutamente sì, ma la vera cosa pazzesca è che lui lo sapeva. Sapeva cosa? Che voi vedevate i suoi filmini? Certo, se mi metteva le partite sapeva anche che io tarda notte capitava, poteva capitare che... Emiliano, hai cambiato quella casa, non stai più lì? No, non sto più lì perché era veramente un affitto immondo, una cosa di soldi. Però vorrei dire, il mio vicino preferito però era un altro. Dimmi qual era. Il vicino preferito era una famiglia di pakistani, al secondo anno... un numero di figli indefinito, non sono mai riusciti a contarli in 2 anni. Ma tipo più di 5? Facevano un tale casino che io avrei potuto tirare le bombe, nessuno se ne sarebbe accorto, erano il vicino perfetto. Ok, tu eri il vicino perfetto. Emiliano, grazie mille, buona giornata. Grazie a te. Ciao, alla prossima. Sergio, velocemente, Sergio da Milano, pronto? Ciao Matteo. Ciao, raccontamela certo. Un po' in fretta, Sergio, mi spiace ma sto chiudendo il tempo. Brevemente, praticamente il problema non l'ho avuto io con dei vicini, ma dei vicini con me, nel senso che ho acquistato uno di quei palloncini che diventano alti 2 metri, il tipo mi dice lascialo nell'acqua calda per mezz'ora, poi riesce a gonfiarlo, lo metto nell'acqua calda nel lavandino, lo scarico otturato, a un certo punto mi suona il campanello, alzo la cornetta, non risponde nessuno, metto giù, la terza volta scendo sotto, questa signora mi trascina nel suo appartamento ed era tutto moquette rossa, specchi, parrucche, eccetera, completamente allagato. E io ho scoperto che al piano rialzato ho allagato il domicilio di una signora che faceva il lavoro a domicilio. Al piano rialzato, sono effettivamente spesso al piano rialzato, anche nel mio caso era al piano rialzato. O forse semplicemente a Milano. Sergio, grazie mille, buona giornata. Ciao, grazie. Dobbiamo chiudere qua. Chiudiamo con quello di cui vi parlavo prima. È il monologo, una parte di monologo di questo film, che vi ripeto, si chiama Sineduc a New York, in cui c'è un prete che sta parlando, che racconta quello che fondamentalmente sono le idee di Charlie Kaufman. Everything is more complicated than you think. You only see a tenth of what is true. There are a million little strings attached to every choice you make. You can destroy your life every time you choose. But maybe you won't know for 20 years. Tutto è molto più complicato di quanto pensiate. Voi riuscite a vedere solo un decimo della verità. Ci sono milioni di piccoli lacci legati ad ogni scelta che voi fate che possono distruggere la vostra vita ogni volta che scegliete. È solo che probabilmente per 20 anni voi non lo saprete e magari non riuscirete mai a risalire alla causa. E avete un unico modo per proseguire, ed è cercare di capire i motivi del vostro divorzio, ad esempio. E in quel momento qualcuno vi dirà che non esiste la fede, che non esiste il destino, e invece esiste come. È ciò che voi create. E anche se il mondo va avanti per millenni, voi siete qui giusto per la frazione di una frazione di secondo. Gran parte del vostro tempo la trascorrete da morti o non ancora nati. E poi, mentre siete vivi, aspettate invano, sprecando anni in attesa di una telefonata, di una lettera o di uno sguardo da parte di qualcuno o di qualcosa che sistemi le cose, ma che non arriverà mai. O che sembra che arrivi, ma non ancora. E quindi buttatevi al vostro tempo, in un vago rammarico o una vana speranza che qualcosa di buono arriverà, qualcosa che vi faccia sentire meno soli, che vi faccia sentire amati. E la verità è che io mi sento così arrabbiato. La verità è che mi sento così fottutamente triste. La verità è che io mi sento così fottutamente male per tutto quello che ho sbagliato e per tutto questo tempo. Io ho fatto finta che tutto invece andasse bene, solo per andare avanti, e non so nemmeno il perché. Forse perché nessuno voleva ascoltare la mia sofferenza, perché ognuno aveva già la propria. Fanculo tutti. Amen.